d'intesa con i suoi collaboratori si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a tutti da Cibus Parma, 800 24 00 24, o se siete nei pressi, nei dintorni, venite a trovarci. Ciao Pierluigi Pardo, posso dirti che hai sbagliato tutto oggi a non essere qui? Lo so, ma lo sapevo, ero consapevole. Ma tocca lavorare. Abbiamo tirato fuori da un'aula dell'Università di Parma Giampaolo Montali, dove sta facendo il professore. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno, avete proprio tirato fuori con grande soddisfazione dei miei studenti che si stavano beccando un pippone sull'assunzione di responsabilità del leader, quindi loro sono contenti. Perfetto. Allora, c'è il quarto d'ora accademico, quindi fai il ritardo classico. Anche perché ho fatto un nuovo libro, ma quanti libri fai? Facciamo un happening, chiami i tuoi studenti, gli dici di venire qui e partecipano a tutti i convocati su cazzeggio vario, no? Tanto è una cosa seria l'università, non è che sia una cosa, non è come lo sport, è l'università, è una cosa seria. Senti Giampaolo, io voglio partire da te con, al di là del fatto che sei uno degli allenatori di pallavolo più titolati d'Italia e del mondo intero, leader, un top coach, quello che vuoi, però voglio partire con te dallo scudetto di Modena della pallavolo, di cui molti ci hanno chiesto commenti e valutazioni. Io le lascio a te. Ma guarda, io sono molto legato a questo progetto perché io sono stato, prima di diventare adesso direttore generale della Ryder Cup 2022 di golf, che è stata assegnata all'Italia, sono stato advisor di tutto questo progetto, quindi sono stato io che ho fatto da consulente per DHL, l'ho portato lo sponsor a Modena e quindi vedevo insomma che questa è una società con una cultura straordinaria di pallavolo, con un potenziale enorme per veicolare quelli che sono verso l'esterno i valori di questo sport. Uno scudetto questo meritatissimo, un triplete come si possa chiamare nel mondo del calcio, ma la cosa secondo me ancora più bella è il modo come ha vinto Modena, cioè dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista generale, cioè nuovamente una città in festa come ai miei tempi, quando erano i miei nemici numero uno, palazzetto strapieno, maschi schermo verso l'esterno, quindi veramente un risultato meritatissimo per una città che ha una cultura che ha mantenuto sempre costante nel tempo, che quindi è giusto che ci meriti questo straordinario risultato. Pardo mi ricordava ieri come tu sei stato l'uomo che ha voluto Ranieri a Roma, no Pierluigi? Sì, come ti ha sorpreso questa impresa? Guarda, questa impresa, cioè, mi ha sorpresa nel senso che vedere Claudio vincere con una squadra che non era tra le favorite come l'Ester in questo modo, con questo tipo di atteggiamento, con questa qualità di gioco, certo che mi ha sorpreso, come mi ha sorpreso anche il fatto che trovare in un anno intero, con una stessa stagione, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, tutte quante, Liverpool, che per un motivo o per l'altro non riuscivano a dimostrare il loro valore, è una cosa, non era semplice da prevedere, ma al di là di quello io credo che i grandi meriti di Claudio sono stati proprio quelli di aver cominciato da subito all'inizio a portare avanti un progetto tecnico ma anche e soprattutto comportamentale, che è quello che ha fatto la differenza, perché è una cosa che in pochi hanno sottolineato, che il valore di quella squadra non sta solo nella componente tecnica di alcuni giocatori che hanno dimostrato di avere grande talento, ma quanto proprio negli atteggiamenti, che è una cosa sorprendente. Questa è una squadra che andava a giocare fuori casa con lo stesso atteggiamento con cui giocava in casa e giocava per vincere, quindi il merito di Claudio è straordinario. Poi sono un amico suo, sono molto felice che abbia vinto finalmente un titolo così importante, perché non ti nascondo che quell'anno a Roma, al perdere gli ultimi 20 minuti per il gol di Milito, quando noi eravamo per un'ora e mezza campione d'Italia, mi è dispiaciuto molto per tutti quanti, per la Roma in generale, ma anche per lui, perché secondo me già allora si meritava di vincere quel campionato. Possiamo dire però Giampaolo, Pier, scusa un attimo, possiamo dire che è un'impresa anacronistica, irripetibile e fuori dai tempi del calcio attuale? Direi di sì, anche se però devo dire che ogni tanto queste cose fanno bene al mondo dello sport, ma fanno bene in generale per la gente, perché sono degli esempi. sono degli esempi virtuosi che dimostra che alla fine con la forza dei valori, con l'impegno, la sagacia, la tenacia, si può riuscire nella vita, anche a fare imprese impossibili. Quindi c'è una famosa marca sportiva che dice nothing is impossible, questa nothing è la dimostrazione, yeah. Questa è veramente niente impossibile, è una cosa che deve essere un segnale per la vita di tutti i giorni, per le persone comuni anche che magari aspirano a soddisfare dei bisogni personali o così dei privilegi difficilissimi, però con l'impegno costante e con il lavoro, alla fine queste cose si possono raggiungere. Senti, dopo gli scoiattoli dei tacchini, che è stato un grande successo, ora so che è un nuovo libro. Io devo dire che io impazzisco per i titoli dei libri di Montali, che poi hanno una spiegazione. Quindi vorrei che fosse lo stesso Montali a declamare e a spiegare il significato. Prego. Ma io penso che meglio degli scoiattoli dei tacchini non si possa fare. Beh, guarda, questo è il nuovo libro che è uscito dalla settimana, si intitola Il parafulmine e lo scopone scientifico. Questo è un libro che parla della leadership. Parafulmine perché quando ero a Roma, il Romanista, che è un giornale di Roma, quello più importante, un giorno uscì con la mia fotografia in prima pagina e a 9 colonne, con la mia fotografia sotto un temporale con un ombrello, il quale diceva, di sottotitolo, io sotto il temporale con un ombrello in mano, c'era scritto sotto Il parafulmine, riferito a me, perché praticamente dicevano è arrivato il parafulmine, cioè questi si aspettavano che arrivassero giocatori, è arrivato un direttore generale che ci prenderà tutte le colpe dei scarsi risultati sportivi. E poi racconto un aneddoto che riguarda la vulnerabilità del capo che deve avere, quindi il parafulmine è una metafora. Invece il scopone scientifico è la storia di una partita a carte giocata in un bar di campagna, dove veramente lì essere leader in quei posti lì, giocare una partita a scopone scientifico con i vecchi della città, con questo Tito che era considerato il migliore della pianura emiliana, mi ha portato veramente dei grandi problemi, cosa che non ha fatto lo sport, non ha fatto per esempio una finale olimpica, una finale di un mondiale. Quindi anche lì un'altra metafora, quindi il libro prende il titolo da 2 episodi molto simpatici, però che ti fanno pensare, ti fanno ragionare. Ma poi quindi Monsieur Malossène, perché ha letto Pennac da una parte, giusto? Sì. E dall'altra parte, Giampaolo, fuori mazzo si può uscire di singola per parlare di sport? Di carta singola? No, scusa, non ho sentito, è andata via la voce. Si può? Si può fuori mazzo, a scopone scientifico, sì. È corretto uscire di singola? Guarda, dipende, se tu sei cartiere non puoi uscire di singola. No, cartiere sempre... no, fuori mazzo. Fuori mazzo sì, devi per forza, perché devi rompere, devi rompere le carte, devi rompere il giallo, devi sparigliare. Però se tu leggi il libro capirai, perché quella partita lì io parto mazziere e dopo 3 carte che gioco il mio socio, che aveva 80 anni, mi dice: ma Montali, non ci avrai in mano il cavallo di denari? Io mi guardo e gli dico: sì, ma dopo 3 carte non pensavo fosse una cosa così importante. Sai cosa ha fatto lui di fronte a 30 persone intorno che seguivano la partita? Ha preso le carte, me le ha lanciate sul tavolo e ha detto: caro mio Montali, avrei vinto tanto, ma non si prendono le balene nella termina. La termina è un piccolo ruscello che scorre in questo paese di campagna, che è Traversetolo, dove non si prende un pesce neanche a pagarlo peso d'oro perché è sempre secco, figuriamoci se puoi prendere una balena. Ecco, quindi il succo è questo, che non c'avevo il talento per giocare a scoppone. E comunque, al di là del fatto che la terminologia Parma o a Pavia è diversa da quella di Roma, quindi fuori mazzo, non lo so, insomma, però ecco. Allora, che tu non sai giocare a carte, Pardo, dai, no, si fa il bravo. No, io so giocare a scopone scientifico, vi invito tutti. Sì, ma giochi con i bastoni, con quelle robe lì. No, scopone scientifico è proprio scienza pura. E secondo me lo spariglio è una grande metafora, dello sport, della vita, perché essere cartiere, non essere cartiere, essere di mano oppure no, identifica perfettamente momenti diversi della vita e dello sport. Ad esempio il time out dalla pallacanestro, dalla pallavolo, è un classico momento di spariglio, no? Dal punto di vista psicologico. Sì, esatto, soprattutto se sei in difficoltà, perché se lo chiama, chi lo chiama normalmente nella maggior parte dei casi è in difficoltà, mentre invece l'altro deve tamponare, deve aspettarne, invece chi chiama il time out deve sparigliare, deve fare una scelta coraggiosa, portare cambiamento, innovare. Ma guarda, la metafora dello scopone scientifico è molto attuale. Leggilo, parlo, poi mi saprei dire. Poi trova il quarto, facciamo una bella partita e vediamo chi è più bravo. Io gioco con te, posso? Sì, io mi prendo il vecchietto di Traversetolo, va bene? Bastardo, non vale, no, lui è horse category. Grazie, ciao Paolo. Attilio che quello più bravo. Grazie, coach. Ti lascio agli studenti. Ragazzi, grazie davvero. Vi salutano, mi hanno costretto a dirvi. Vi salutano tutti gli studenti del Master dello Sport dell'Università di Parma. Ma ci ascoltano. Il Master, no? Dove sto insegnando. Ok? Spero che ci ascoltino. Grazie, Giampaolo. Sì, secondo me hanno messo una radiolina, hanno acceso un telefonino e ci stanno ascoltando. Grandi, grandi, li salutiamo tutti. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. 800 24 0024 numero verde. Tutti convocati. Convocati. Che cosa sto cercando? Qualcuno che sia disposto a condividere con me i finanziamenti futuri per il mio Milan. Credo fra 15 giorni. Sì, per chiudere definitivamente. Speriamo di sì, perché l'operazione non è soltanto quella che è apparsa oggi, è un'operazione molto ma molto più molto più ardita di quella che appare, molto più ardita di quella che appare. È tutto in discussione, tutto questo, proprio perché c'è la possibilità che io possa mantenere il 51%. Da questa commercializzazione riteniamo, come previsione che ci sembra fondata, possano arrivare dei fatturati al Milan che gli consentiranno di restare su un piano di competizione con le altre grandi squadre europee e non soltanto europee. Chi mi dice che bisogna vendere, rispondo che ci sto provando da un anno, ma che vorrei lasciare il Milan in buone mani e in mani che gli garantissero un futuro da protagonista e preferibilmente in mani italiane. Allora, queste alcune delle parole di Berlusconi, del pregresso, parole conosciute, il Milan è il tema del giorno dopo i fatti di ieri, questa esclusiva di trattativa concessa a questa fantomatica ancora cordata cinese. 800 24 00 24 è il numero verde. Ci sono un sacco di interrogativi sul tappeto, compreso il fatto che il Milan comunque deve fare una squadra e si trova a metà di maggio a discutere sulla proprietà. Questa è una discrasia non da poco. Riccardo Roma, buongiorno. Intanto, buongiorno. Aspetti, già vi dico che fuori dal vetro siamo Cibus a Parma. E già vi dico che tra poco saranno qui con noi fisicamente in studio Nevio Scala e Gigi Apolloni, rispettivamente presidente e allenatore del Parma, ma soprattutto un pezzo della storia del Parma, perché questa è una storia molto bella, molto romantica, se vogliamo, anche per me che sono un cinico, confermi Pardo? Confermo, sei un cinico. Sono un cinico. Totalmente anaffettivo, però vedere il Parma che il vecchio Parma, compreso Melli, compresi tutti i grandi protagonisti del Parma che fu, che si radunano intorno a ciò che è rimasto di questa squadra e che tentano la scalata ai gradini che gli compete, alle quote che compete loro, è meraviglioso. C'è anche Marco Nosotti, buongiorno Marco. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, viva Cibus, si sta da dire. Perché non vieni? Perché non sei venuto qui? Dove sei? No, non cominciate, perché io sennò non capisco più chi è Pardo e chi è Nosotti. Allora, il solito giudino di Pardo che vuole mescolare le carte. Tu chi sei? Nosotti? Io sono il Noso, il Noso. Allora Noso, che cosa succede al Milan? Saperlo. No, nel senso che alcuni segnali, cioè, che i colleghi più titolati e più preparati di me ve l'abbiano già detto, però che cosa sostanzialmente cosa succede? Il Pininvest ha capito che l'asset a Milan non è necessario e prioritario, e la proposta cinese, adesso dobbiamo capire bene che sono questi cinesi, ma è credibile, forte, è sostenibilissima, va perseguita. E cosa succede? Però il presidente è la variabile impazzita, lui che è stato il grande uomo delle finanze, ora si sta concedendo qualcosa fin troppo al cuore, o un'immagine. E quindi, però per il momento hanno preparato tutto perché si vada avanti con questa esclusiva, si guarderanno negli occhi, mi danno più conti, ma i conti conoscono già. Sì, poi magari trovano l'accordo e Berlusconi ci dorme sopra, la mattina dopo si sveglia, come già visto, e dice, sì, no ragazzi, non si può fare. Io credo lo scenario sia questo, che temano questo, perché tutto sì, spinge in quella direzione. Ecco, ci sono uomini veri, l'advisor è vero, ha fatto grandi operazioni, perché è importante, ti ripeto, è credibile. Forse le cifre non sono proprio quelle lì, forse qualcosa di per chi c'è la copertura di che sono almeno oltre 240 milioni. E però se voglia, devono fare presto perché loro vogliono fare presto. No, ma perché i tempi sono stretti, Pardo. Attualmente sì, l'unica operazione del Milan è il rinnovo a Montolivo per tre anni a tre a stagione. Non so quanti tifosi del Milan faranno la ola. Mezzo. Sì, ma quella è una questione quasi tecnica, no? Il tempo non è che stringa, cioè non è che se Berlusconi non vende adesso sa che succede. È chiaro che c'è voglia di tornare a fasti conosciuti, molto grandi e però spariti da un po' di tempo. È abbastanza ovvio che così non si possa andare avanti per certi livelli e in questo momento c'è una grande spinta nei confronti di Berlusconi per disfarsi della società. Io leggo così il suo messaggio dell'altro giorno su Facebook, perché sia il punto di vista di chi è un po' spazientito dal fatto di sentirsi dire continuamente che deve vendere, e infatti dice io sto cercando di vendere, non ho capito il riferimento all'italianità, perlomeno non l'ho capito nella contingenza di una trattativa aperta invece con un gruppo cinese, in generale in assoluto che sia molto più romantico, visto che di storie romantiche fra poco parleremo col Parma, che sia molto più romantico, sarebbe molto più romantico vendere degli italiani, è evidente, ma quando ieri abbiamo fatto la lista della spesa degli imprenditori che potrebbero essere interessati con Belinazzo, insomma, alla fine è abbastanza chiaro che non ce ne siano moltissimi, purtroppo, questo è un problema forse più da focus economia che da tutti i convocati. Certo, detto questo, io penso che Berlusconi, il sogno di Berlusconi è chiaro, è riuscire a trovare un partner e mantenere la maggioranza, è molto difficile. Ma è il sogno di tutti noi, è il sogno di tutti noi, trovare qualcuno che ci mette i soldi lasciandoci comandare, cioè questo è il sogno di ogni essere umano, no? Le mogli ci riescono qualche volta, sometimes. Oh, ha vinto l'Etsworth, vecchio no. Senti Marco, mi togli una curiosità, poi ti saluto, ma perché si fanno mille nomi di è chiaro che è un discorso prematuro come l'erba appena seminata, perché è chiaro che bisogna mettere ordine in società e tutto quanto. Bravo. Perché si fanno i nomi di mille allenatori, Montella compreso, e non si fa il nome di Giampiero Gasperini, che secondo me sarebbe perfetto per il Milan nelle condizioni attuali? Rispondo subito a questa domanda. Giampiero sì. Gasperini, qualcuno dice, ma sai, gioca a tre... Ma sai, ha già fallito a Milano. Ma chi se ne frega? Ah, no, a Milano ha fallito. Calma. Io ieri l'ho detto a Pardo, coito interrotto quello dell'Inter. Sì, quello sì. Ma Giampiero, quando c'è una squadra che lo segue, lo stiamo vedendo. Tanto non sai mai come gioca, perché i suoi sistemi di gioco è bello, interpreta il tempo e lo spazio in base ai suoi giocatori, in base ai giocatori avversari. Non sai mai se difende davvero a tre, eccetera, eccetera. Quindi i suoi giocatori hanno molte conoscenze. Questo è importante, ma a me piacerebbe. L'altro discorso è che, vabbè, adesso non so se Montella andrà veramente in nazionale, stanno provando diverse situazioni. Ma lo sai, il presidente è innamorato di Christian Brocchi. Io ho paura che lo bruci, perché Christian ha delle idee, ha la grande opportunità, credo che così rischi di bruciarlo, però se vince resta lui lo tiene, vuole andare avanti su questo, per cui quando hanno detto sentiamo Montella, guarda caro Montella, sappi però che se le cose vanno in una certa maniera il presidente vuole Christian, e non so se sia un vantaggio o meno per Christian, ma tutto dipende. Tutto questo cosa vuol dire? Che non c'è un'idea ben precisa di che calcio vuoi fare, che squadra vuoi essere. Prendo un gruppo di giocatori, li mescolo un pochino, poi gli do il primo che passa e poi dico, oh, non sei bravo, ah, non ci ho capito niente, ah, ma tu giocavi così, ma io volevo un'altra cosa. Gli ultimi tre allenatori hanno fatto così, Seedorf, Pippo Inzaghi, certo. E quindi questo non va bene, e quindi, però ti dico, questa situazione così, arrivo ai cinesi, resta il presidente, perché se resta deve rilanciare e lo deve sapere questo. Allora cosa fai? Ecco che allora vengono fuori tutte queste voci, fuori il discorso di un biennale da 8 milioni. Ibrahimovic, sì, si riaccende la fiammella se arrivano i cinesi, perché gli hanno già chiesto di andare a giocare là, ma lui non ci andrà mai, punta a fare un po' l'asta per andare in Premier League, ma in Premier League un triennale o un biennale non te lo fanno a quelle cifre. Certo. Poi ti dico, in questo momento è molto aleatorio, è tutto molto, molto incerto. Nebbia totale su Milano e su Milanello, Marco Losetti. Ho l'impressione che non se lo vogliono far dire, troppi yes men in questi anni da quelle parti, e qualcuno dovrebbe dirgli, ragazzi, guardate, ci vuole il suo tempo, una giusta comunicazione verso il pubblico, e si scelga una strada e si provi a perseguirla. Bravi giovani italiani, ok, mettiamo degli uomini forti nella dorsale, grandi esperti, ma scegliamo un allenatore, sosteniamolo. Mihajlovic, se ti vada bene o non ti vada bene, tu l'hai cominciato ad affossare dopo il 2-0 fuori casa contro la Fiorentina, gara numero uno della stagione. Grazie Marco! Vi voglio bene, viva! Anch'io ti vogliamo bene, anche noi, tutti quanti ti vogliamo bene, tutti gli ascoltatori di tutti i convocati che convoco all'800240024 subito dopo la borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Allora torniamo, Pierluigi Pardo, tu sei al Foro Italico, no? Sì, sì, sto entrando. Cosa stai guardando? Sto entrando. Cercando il posto per tirare l'accredito. Ho capito. Lì sì. Non ci sono le fragole con la panna come a Wimbledon, c'è il panino con la porchetta, no? E nemmeno le fragole buone buone, le fragole con limone Simone di Luca Garconi. Intanto campione. Parliamo con gli... Che era succede? Una citazione, vabbè. Sì. Ah, va bene. Va bene, Riccardo da Roma e Lorenzo da Treviso. Io sono curioso di sapere dai tifosi del Milan quanti di loro vorrebbero un Milan cinese, oppure quanti di loro sono stufi dell'era Berlusconi, che pure ha portato così tanti trionfi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Beh, glielo faccio sapere subito, perché me lo dica. Il Milan è una squadra, trovo penoso, ipocrita fare riferimento alla squadra tutta italiana, perché questo significherebbe che dovremmo rinunciare a un nuovo Dybala, un nuovo Mandzukic, un nuovo Nainggolan, un nuovo Higuain. Cioè, stai mascherando con un riferimento all'italianità la voglia di non spendere. Oggi l'unico italiano... Ma dire la verità, Berlusconi vorrebbe una proprietà italiana, cosa abbastanza improbabile. No, prima ha parlato della squadra, però. Ha parlato della squadra, sì. Questa italianità, secondo me, è abbastanza anacronistica, almeno per le squadre del massimo livello europeo e mondiale. Quindi è un discorso che regge fino a un certo punto. 64 anni che stai in Inghilterra. Questo è l'unico. Dica? È l'unico, questo dicevo, l'unico italiano che fa la differenza non sono Pelé o Pepito Rossi, è Claudio Ranieri. Sì, Claudio Ranieri in questa stagione, poi ci sono altri italiani che potrebbero fare la differenza, ma sono pochi. Secondo me, per quanto riguarda le squadre di club, io continuo a ripetere, non si parla di italiani o di stranieri, ma si parla di giocatori forti o di giocatori che non lo sono. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, sono Giorgio da Treviso. Io volevo dire Giorgio o Lorenzo? Purtroppo è Lorenzo Giorgio, Lorenzo il cognome, Giorgio il nome. Ah, quindi ecco come Jorge. Jorge Lorenzo. Esatto, però non spagnolo ma italiano. Ah, va Valentino bene, comunque omonimo di Jorge Lorenzo, però ti fa per Valentino Rossi, giusto? Non ci sono dubbi, forse Valentino sempre. Benissimo. Volevo intervenire, il mio intervento era che l'alternativa ai cinesi esiste ed è una cordata molto importante che c'è sempre stata e ha un solo nome, tifosi. No, noi tifosi siamo 9 milioni in Italia circa, 24 milioni Facebook, tifosi mondiali 99 milioni, sesta squadra al mondo ad avere più tifosi. Ho fatto due conti, siamo riusciti a mettere in soli tre giorni, questo è un qualcosa che mi ha scioccato anche me, che sono stato l'ideatore di questa follia, così me l'hanno definita, www.compriamocilmilan.com. E siamo riusciti in soli tre giorni a raggiungere 300.000 sottoscrizioni. Chiaramente si tratta di manifestazione di interesse non vincolante. Certo. Il nostro da dove parte? Dal fatto che ognuno di noi in media, abbiamo fatto una media, il vero tifoso spende circa 1.000 euro l'anno, perché Sky e Mediaset esistono, soprattutto il pay per view esiste soltanto grazie al calcio. Quindi alla fine la spesa media pro capite siamo intorno ai 1.000 euro, non meno. Partendo da questi dati e chiedendo ai tifosi solo 100 euro per una sottoscrizione, arriveremmo a una cordata non cinese ma tutta italiana. Questo ci vengo a dirlo Allora, l'azionariato popolare tentato in Italia in molteplici sport, soprattutto nei momenti di difficoltà, non ha mai attecchito. Pierluigi lo sa benissimo. Sì, non è proprio una formula, non è una formula che si usa da queste parti, insomma. Poi per carità, ed è una formula che in realtà si usa da pochissime parti, nel senso, cioè, l'esempio spagnolo dei socios, che chiaramente sono una, però un'anomalia, diciamo, rispetto al resto del mondo. Non è che in Inghilterra ci siano i club alla spagnola, quindi è una specificità essenzialmente spagnola, con vantaggi e svantaggi. Francamente sì, non è una strada, non mi sembra una strada, insomma, per quello che è il modello italiano. Serve qualcuno che si prenda fuori il club, che lo faccia tornare il club a una potenza di fuoco ancora, soprattutto in termini di immagine, mi riferisco al Milan, come Benignazzo ci racconta dalla mattina alla sera, certe volte anche in maniera un po' sorprendente, no? Rispetto a quelli che sono i risultati tecnici degli ultimi anni, che sono molto deludenti. I risultati tecnici sono deludenti, ma il Milan conserva ancora, almeno per un po', immagine internazionale di club molto vincente, che alza tantissimo sicuramente il valore economico del club stesso. Sì, allora io direi ci fermiamo un attimo in leggero anticipo sul traffico e poi andiamo in Spagna. Tutti convocati. Convocati. Messi al limite, cerca lo slalom, non lo trova. Dani Alves, scodella verso Suarez, Neymar! C'è anche la firma di Neymar Junior, 5-0, altra manita del Barcellona, stavolta nel derby contro l'Espanyol. Partito Ronaldo, il pallone per lui, Ronaldo fino in fondo, Ronaldo! 33 volte in questa Liga, Cristiano Ronaldo, 3-1! Cristiano Ronaldo, 3-1! Attacca l'Atletico Madrid, Coque, gran palla in verticale, posizione regolare per Torres! Col tocco sotto, il ragazzo che da quando ha 10 anni sogna di vincere un trofeo con l'Atletico Madrid, porta avanti i colchoneros, 1-0! 89esimo, corre Turbo Morales, Savic non lo tiene, Morales con l'esterno, va dentro da Rossi, 2-1 del Levante, il gol di Giuseppe Rossi, il numero 60 della Liga, che condanna l'Atletico Madrid. Che estoy orgulloso de ellos, que han hecho una gran temporada hasta el día de hoy. Y que nada mejor que la realidad del momento para tomar fuerzas y bueno, terminar la temporada de la mejor manera, si es posible segundo, que es lo que viene después de primero, y si no, tercero. y si no, no, no, no queda, cuarto no queda, no llegamos. E dunque c'è stato, ne parlavamo lunedì, era l'8 maggio, ma c'è stato un 5 maggio anche per l'Atletico Madrid, oltre che per l'Ajax. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. 5 maggio firmato Pepito Rossi, 90esimo, già retrocesso, e Atletico Madrid che adesso giustamente pensa alla Coppa, eccetera, eccetera. Però un 5 maggio in piena regola, di interistica memoria. Sì, quindi che coinvolge anche Simeone, no? Certamente, certamente. Che l'aveva già vissuto. Esatto, però vabbè, io dico una cosa, sicuramente c'è la delusione, però siccome si sono resi anche conto che difficilmente il Barcellona sbaglia un colpo. Da quando ha perso col Valencia, 4 partite, 21-0, non li vedo non vincere a Granada, sinceramente. Questo probabilmente lo sa anche l'Atletico, che ha raggiunto in quella stessa settimana, dopo una partita complicatissima a Monaco, ha raggiunto la finale di Champions, e diciamo che ci sta. A parte che quest'anno l'Atletico ha sempre sofferto, insomma, dopo le partite di Champions, e è passato in vantaggio dopo 80 secondi. E no, troppo, non so, si sono rilassati, deve essere complicato comunque, no, mantenere alta la tensione, i giocatori sono quelli, e è partito, no, senza Griezmann, l'ha messo nella ripresa. Ho capito, Filippo, però non cerchiamo giustificazioni. No, Pierluigi, sei lì contro l'ultimo in classifica, sei in lotta per il titolo, quella partita lì la porti a casa. Però normalmente non mi sembra un 5 maggio, nel senso che comunque l'Atletico difficilmente avrebbe comunque vinto il campionato, anche se avesse vinto l'altro giorno. Molto diversa la situazione dell'Ajax. L'Ajax l'ha veramente buttato via in maniera clamorosa. Quello è un 5 maggio vero. L'Atletico era appeso a un filo, così come adesso ancora il Real è appeso a un filo, ma mi pare che sia Atletico che Real abbiano un pensiero, diciamo, molto più importante della testa in questo momento. Il Barcellona ha avuto 4 partite di blackout totale, poi ha reagito. Poi anche qui, insomma, noi ci lamentiamo spesso del nostro campionato, sicuramente. Però anche in Spagna, diciamo che la differenza fra le grandi e le non grandi spesso è clamorosa, per cui poi sono arrivati gli 8-0, sono arrivati i poker di Suarez, le triplette, le doppiette. Barcellona, da questo punto di vista, dopo che aveva buttato via quasi tutto, fra classico, eliminazione di Champions, sconfitta con Valencia, mi pare che poi abbia ritrovato la strada. Senti Pier, mi viene così, tu che sei un cultore del calcio inglese, come valuti un altro romanzo popolare come quello di ieri sera del West Ham? Sì, anche un po' splatter, diciamo, perché poi insomma noi giustamente ci lamentiamo, sottolineiamo, denunciamo le cose brutte del nostro calcio, che sono tante, però insomma ieri diciamo che l'era del Bowling Ground è stata chiusa nel peggiore dei modi, con violenze. Quindi, insomma, questo non è minimamente consolatorio, anche beato, insomma, non è mal comune mezzo gaudio, però insomma ieri sono successe delle cose abbastanza gravi a Londra, che ci raccontano che poi il seme della violenza è insito nella natura umana, non è che ci sono i buoni e i cattivi, delle situazioni nelle quali si riesce a gestire, a educare, a rimuovere, a prevenire, in qualche caso anche a reprimere, perché poi in qualche caso serve pure un po' di repressione, anche se culturalmente è una parola che non mi piace, e ci sono altri casi nei quali non ci si riesce. E detto questo, è stato sì, in campo è stata una partita da romanzo, anche perché chiaramente c'era uno spettatore non pagante, che era il Manchester City, che tutava, e volendo anche Guardiola. E che ha regalato la Champions League a Guardiola quando era tutt'altro che certa, no? Esatto. West Ham è tornato anche prepotentemente in corsa, però insomma direi che appunto il City è padrone del suo destino, dopo che la stava buttando via, perché insomma il vero paradosso di questa stagione per il City poteva essere, dopo aver sfiorato la finale di Champions, trovarsi fuori dal campionato. Comunque io un campionato inglese così strano non l'ho mai visto, credo che anche Ricci non l'abbia mai visto, nonostante ne abbia seguiti una buona parte dall'Inghilterra come corrispondente. No, assolutamente, diciamo assolutamente emozionante anche quanto è successo ieri sera, ma anche sabato il Newcastle di Benitez, che va a giocarsi la salvezza, no? Col già retrocesso a Aston Villa e non vince, e quindi praticamente autocondannandosi, no? Ci sono tante ultimamente, no? È un continuo di emozioni o di mancanza di tali, come nello 0-0 tra Aston Villa e Newcastle, però gravissima. E lo United ieri è arrivato, voglio dire, questo era un lavoro da finire anche questo, un po' come dicevi tu prima con l'Atletico, insomma. E comunque curioso, non sappiamo ancora se sarà Mourinho o no, no, anche questa sfida a distanza, se sarà Mourinho l'allenatore dello United, uno tra i due, tra Mourinho e Guardiola, destinato a star fuori dalla Champions, no? E se la giocano altri al loro posto, tra le altre cose, no? Sì, loro sì, come sì, spettatori, certo. Stanno lì che tifano, fanno, guardano, no? Sempre che poi che Mourinho vada effettivamente allo United, che è un altro, questa è un'altra delle incognite, no? Presto dovremmo sapere qualcosa, però sì, pensare Guardiola, che da quando è arrivato, no, ha fatto 7 semifinali di Champions e non l'avrebbe giocata, sarebbe... No, senti Filippo, toglimi un'ultima curiosità, come Atletico e Real si avvicineranno alla finale di Champions? Ritiri, magie, stregonerie, no, che succede? Intanto mi sembra che siano tutti bene, questo già è qualcosa di, no, di rilevante per ora. Adesso quindi niente ritiri in monastero? No, per ora no, mi sembra che l'Atletico sta pensando di venire un giorno prima, cioè il 26, questo è quanto ho appreso. Ho visto che sono state indicate le zone per le fan zone, che sono belle, sono separate parecchio tra di loro. Però no, ovviamente stanno vendendo i biglietti, che è un vero casino. Se vogliamo parlare di uno scandalo vero, è quello dei biglietti. Non so se in questi giorni l'avete trattato, però praticamente ai tifosi... No, io, semplicemente io e Pardo abbiamo messo in affitto la nostra casa. Anche gli alberghi, ho letto. Sì, vabbè, alberghi, voli, quello... Noi, però, io sì, e Pardo affittiamo casa, certo, spagnoli, fate certo. Solo bene, però io dico, alberghi e voli dipendono da altri, no? Cioè dipendono dalle compagnie aeree o... dagli albergatori, che va bene, può essere criticabile, fanno quello che ti va pare. Bene, okay. Però sui biglietti no, cioè i biglietti sono del tifoso teoricamente. Allora, ne hanno dati 19.000, a parte che la capienza di San Siro ridotta a 71.500 posti, già mi sembra una follia, però questo è 19.500, se ne tengono ovviamente i club, tipo 3.000, ogni club si tiene un 3.000 per tra giocatori e amici, dei amici degli certo. Amici, ai tifosi diciamo che vogliono comprarne, ne rimangono 15.009 da una parte e 16.100, 16.002 dall'altra. Certo, certo, così cioè, è. Voglio dire, così gli altri 40.000 vanno ad altra gente. Cioè, questa pacchetti, agenzie di viaggio, eccetera, eccetera. Ma conosciamo bene queste storie. Filippo, ti saluto. Ciao, grazie. Ciao. Io chiedo a Pierluigi Pardo, che tra poco saluterò e lascerò al tennis di Roma, di presentare... Apolloni e Nevio Scala, che subito dopo il GR saranno qui con noi. Beh, sono stati una delle eccezioni più belle del calcio italiano, di quando c'erano 7 sorelle e adesso stanno impreziosendo la propria parabola e la propria carriera di una pagina, se possibile, ancora più romantica. Nella confusione sono riusciti a trovare però invece una grande stagione, la voglia di rivincita di questo club, per cui tifiamo per loro. Sono qua fuori che ci ascoltano, Ciao Pier, saluta anche la Ligios. Elena Ligios, regia occulta di Radio 24, ancora in questo Cibus 2016. 800. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire, arrieccici. Convocati. Baggio e spezza anche questa trama. Minotti, c'è il fischio finale dell'arbitro e il Parma si aggiudica la Coppa UEFA. Salirò tra le rose di questo giardino. Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. c'è una un'innata passione per lo sport e per il calcio in modo particolare, e poi comunque credo personalmente nel progetto che stiamo portando avanti. I soldi ci sono? I soldi ci sono sempre stati, anche altrimenti non ci imbarcavamo un'avventura così. Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Purtroppo probabilmente ci saranno altri punti di penalizzazione dovuti al mancato pagamento di alcune cose, quindi c'è da pensare sia in B, ma chiaramente potrebbe essere un vantaggio. È tutto qui ed è finalmente bellissimo per il Parma, di nuovo tra i professionisti con 3 partite di anticipo dopo aver dominato il girone D di Serie D con 25 vittorie, 10 pareggi e nessuna sconfitta. Ora si può dire, il Parma Calcio 1913 è in Lega Pro. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Sembra passata un'eternità, oggi c'è la possibilità di festeggiare e di ripartire. Da oggi siamo ripartiti, ci lasciamo alle spalle tutto e speriamo, insomma, di riportare Parma dove merita di stare. Dunque, siamo a Parma, a Cibus. 800240024 per tutti quelli che sono di Parma e oltre in tutta l'Italia, per salutare e festeggiare due monumenti della storia del Parma attuali, come Nevio Scala, che è di fronte a me, che saluto. Ciao. Buonasera, ciao. E come Gigi Apolloni, che del Parma è l'allenatore. Ciao, ciao Gigi. Ciao, buonasera. Allora, vorrei partire dal racconto di questa stagione prima di sentire Simone, che è invece un, mi scrivono, ex chef del Parma Calcio. È già in linea, 800240024, è un ascoltatore. Raccontatemi questa stagione, Nevio. Bene, in poco tempo non è così semplice raccontarla, perché in effetti siamo partiti da zero, eravamo reduci da un fallimento. Il primo di agosto eravamo 2 giocatori in prova, cioè confermati, Alessandro Lucarelli e Lorenzo Adorni, che è un ragazzo di Parma. Il resto era niente. Io sono stato incaricato per scegliere, diciamo, la parte tecnica della società, e quindi mi sono scelto quello che vedi qui vicino a me, Gigi Apolloni, sì, come mio allenatore. Che Lorenzo non conoscevi tanto. No, la verità lo conoscevo molto bene. Lorenzo Minotti, Fausto Pizzi, responsabile del giovanile, e siamo partiti così, con la voglia di, diciamo, di ripetere quello che era negli anni passati, con grandi difficoltà ma con grande entusiasmo, con molta semplicità, con molta umiltà. E devo dire, hai sentito la voce prima di Gaia, che ha così sancito il nostro ritorno nei professionisti, e questo era il primo traguardo che ci eravamo proposti. Gigi, quanto è stato importante ritrovare questa squadra? Perché credo questa sia una storia unica nel calcio italiano. Ci sono stati tanti fallimenti, tanti dissidi, tanti dissesti in molti club anche importanti, no? Sappiamo che il Napoli è ripartito senza neanche i palloni, quindi per questa scalata che lo ha portato ora dove l'ha portato. Quanto è stato importante ritrovare la squadra del Parma originale in questa risalita? Ma è stato fondamentale, proprio perché, come diceva il presidente, lui ha scelto prima di tutto degli uomini, nel senso che persone che già conosceva, con cui aveva già lavorato in una certa maniera, pur essendo allenatore, e noi giocatori, e abbiamo riproiettato, abbiamo ripercorso, diciamo, abbiamo riportato quello che sono stati i suoi insegnamenti, con aggiunto l'esperienza, quella mia da allenatore, come quella di Lorenzo Minotti come direttore sportivo, con quei valori che appunto Scala ci aveva insegnato. Devo dire che non è stato tutto facile, però chiaramente abbiamo superato quelle difficoltà, non tante, però quelle difficoltà, proprio attraverso quell'unità di intenti, aver fatto rialzare anche la testa a una città come Parma, che ha subito una ferita molto grossa, non soltanto a livello calcistico ma anche come città. È una delusione molto forte, e quell'orgoglio, quella rabbia anche, quell'orgoglio che la città aveva, ce l'ha trasmesso attraverso i suoi tifosi, attraverso le persone che amavano Parma e che hanno comunque amato il Parma di Nevio Scala, dove abbiamo raggiunto obiettivi impensabili in poco tempo, in brevissimo tempo abbiamo fatto quello che non ha mai fatto una squadra di calcio, ecco. E questo abbiamo cercato di ritrasmetterlo attraverso le nostre esperienze, la mia esperienza, l'esperienza di Nevio Scala e quella di Lorenzo appunto, ai giocatori, fargli capire quello che erano, che è il vero valore del gioco del calcio, la passione che uno deve metterci dentro, i sacrifici, le sofferenze e anche le gioie, trasmettersele lasciando stare da parte, mettendo da parte il proprio obiettivo personale e metterlo invece al servizio della squadra. Voi sapete bene come nello sport italiano, non solo nel calcio, è successo molte volte, anche nella pallacanestro ad esempio, come di società che hanno avuto una traiettoria molto simile a quella del Parma, l'ultima che mi viene in mente è Siena, eppure proprio lì, nel momento più difficile, nel momento più basso, trovi l'affetto della tua gente, no? Perché cosa ha rappresentato Parma in questa stagione per voi? Il pubblico di Parma, cosa ha rappresentato per voi? Ma guarda, è stato un qualche cosa di indescrivibile e anche di inaspettato. Posso immaginarlo, sotto un certo punto di vista, perché appunto il fallimento aveva reso il morale di tutta la gente a zero, no? È il fatto che alcuni imprenditori abbiano avuto il coraggio di mettere a disposizione il proprio tempo, no? Per ricostruire quello che era possibile ricostruire, credo abbia dato alla gente di Parma uno stimolo importante, nel senso che nessuno più si aspettava che Parma sarebbe rinato in così breve tempo. È chiaro che i nomi che hanno sostenuto questa società e questo progetto sono nomi molto importanti. Poi questi nomi hanno avuto, non so se la fortuna o la sfortuna di scegliere noi come responsabili dell'area tecnica, e credo che anche questo la gente abbia apprezzato molto. Possiamo chiamarlo senso di appartenenza? Probabilmente sì, nel senso che diciamo noi negli anni nostri, dall'89 al 96, avevamo costruito non tanto con le vittorie, ma avevamo costruito con il nostro modo di lavorare un qualche cosa di veramente di indimenticabile. E la gente forse in questo Parma ha rivisto subito la possibilità che qualcosa di simile potesse rinascere. Cosa ha rivisto il seme? Ha rivisto il seme della rinascita? Ma ha detto bene Gigi prima, cioè quando lavori con le persone che hanno lasciato un ricordo diciamo importante e che si sono sempre dimostrate di essere persone umili, di qualità, io credo che la gente di questo abbia bisogno in questo momento, in un mondo, il mondo del calcio, che è diciamo in questo momento un po' inquinato, perché giornalmente leggiamo di scandali, scandaletti eccetera. Ecco, il messaggio che il nuovo Parma ha voluto lanciare è proprio il contrario di quello che si leggono o che si vivono in questi giorni diciamo nel mondo del calcio, e questo la gente l'ha capito subito, e la gente, lasciami che te lo dica, ha bisogno di cose pulite, ha bisogno di cose vere, ha bisogno di vivere in serenità questo sport, che è uno sport straordinario. Simone, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo unirmi ai complimenti, a fare complimenti a Nevio Scala e Gigi Apollone, e salutare in particolare Gigi, che ho avuto l'occasione di conoscere durante la mia esperienza lavorativa per la precedente gestione del Parma Calcio, ero lo chef. Sì. E niente, non posso fare altro che fare complimenti e un in bocca al lupo per il prossimo obiettivo, che è quello dello scudetto. Certo, ça va sans dire, no? È ovvio. Adesso grado per grado, scalino per scalino, si punta ovviamente. Cosa mangiava Gigi Apolloni? Qual era il suo piatto preferito, Simone? Ma Gigi è quello che si vede, era umile anche nel mangiare, nel senso che quello che c'era andava sempre bene per Gigi, non c'era mai problema. Andava sempre bene, è un modello praticamente. Cioè, gli dava il petto di tacchino. Non ha mai avuto pretese particolari. No, No, era una grande persona, ma devo dire che io ringrazio anche Parma perché mi ha dato l'occasione di frequentare un ambiente come quello di uno spogliatoio di Serie A, che una persona come me altrimenti non avrei mai potuto conoscere, e conoscere anche delle persone che a volte uno, leggendo i giornali, ha delle idee che invece si sono rivelate delle persone vere. Parlo di Alessandro Lucarelli, Galloppa, tutti questi personaggi, Gobbi, Cassani, tutti grandi personaggi. Eh beh, sì, sono persone vere e possiamo scoprirlo proprio in questo modo. Nevio, qual è il tuo piatto preferito? La pasta e fagioli, che è un piatto tipico veneto. Visto che siamo a Cibus. Appunto, la pasta e fagioli è un piatto che appunto mia madre gestiva con grande frequenza nella nostra famiglia, quindi mi è rimasta questa eredità. Apolloni invece mangia solo il tacchino il tacchino alla griglia, visto come com'è in condizione. Mi lascio andare anche io. Potrebbe giocare ancora, no? Sì, Gigi è in grande forma, ma è in grande forma soprattutto a livello psicologico. È riuscito a costruire uno spogliatoio straordinario e questo, ecco, io credo che Gigi sia una sorpresa da questo punto di vista. Cioè, non pensavo mai che Gigi fosse diventato o sarebbe diventato un grande allenatore. Invece scopro giorno per giorno che ha delle qualità straordinarie, proprio di una persona vera, di una persona che sa trasmettere il proprio sentimento ai propri giocatori. Vedo soddisfazione nei tuoi occhi. Sì, assolutamente. Sono anche lucidi per la commozione. Vedo soddisfazione nei tuoi occhi. Perché tu non puoi immaginare quello che ho provato e quello che ho provato quest'anno nel seguire il percorso di Gigi. Cioè, nel senso che eravamo tutti sotto esame, era e si è verificato un anno molto difficile perché le aspettative erano tantissime e il fatto di essere riusciti appunto con il lavoro di Gigi a finire il campionato imbattuti credo sia un traguardo unico in Europa. Allora io faccio intervenire altri ascoltatori, 800 24 00 24, come sapete questo è un happening quotidiano. Mirko, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, parlo da Chioggia. Il Parma quest'anno lo conosco abbastanza, l'ho seguito abbastanza visto che ha giocato nel stesso girone della mia squadra della città. Sì. Le sorti sono state diverse perché uno ha vinto e noi siamo andati giù, comunque sono contento per il Parma. Opposte. E spero che il futuro porti maggior fortuna per noi e anche per loro che rientrano nel calcio che conta, che loro meritano. Però vorrei essere una voce fuori dal coro adesso. Sì. Rispetto a tutto, prima cosa volevo dire, se volevo un'opinione da parte loro, cosa c'entra il Parma, così come le altre società blasonate, portarle nei dilettanti? Quest'anno il campionato del Parma è stata fatta come la pubblicità che dice ti piace vincere da solo. Praticamente ha fatto un campionato per conto suo, ha giocato dalla prima all'ultima giornata, ha fatto mi sembra 10 pareggi, tutte vittorie, praticamente ha fatto un campionato a sé stante. Quest'anno nel girone c'erano 3-4 squadre che erano partite per salire i professionisti, come c'era il Forlì, c'era il San Marino, c'era il stesso Delta che poi è andato tanto bene, l'Alto Vicentino. Sono 3-4 anni che cerca di andare su e ogni anno gli piazzano una biga sul campionato, ogni anno sicuro non fa sopra. Se è giusto secondo loro che il campionato di Serie D sia falsato in questa maniera, perché si sapeva già dall'inizio che una squadra come il Parma avrebbe vinto il campionato, non poteva competere con squadre che hanno un budget di 3, 400, 500 mila euro, mentre loro avevano un budget pressoché illimitato. Aspetti Mirko, le faccio rispondere da Nevio Scala che scuote la testa. Stia lì, eh. Mirko, a me dispiace che tu la pensi così, perché non è assolutamente la verità. Noi siamo partiti con un budget molto limitato, con un budget che avevamo stabilito all'inizio ed è un budget che si equivale a molte altre squadre del nostro girone. E anzi ti dico una cosa, credo che molte squadre del nostro girone che tu hai nominato abbiano speso molto di più di noi. Io non voglio attribuire a Gigi dei meriti che forse possono sembrare antipatici, ma ti posso garantire che abbiamo lavorato con serietà, con umiltà, che abbiamo lavorato con trasparenza e quindi il Parma deve essere un esempio e secondo me lo è stato un esempio perché ci hanno seguito in molti, da tutta l'Italia, da tutta l'Europa, proprio perché la sua trasparenza è stata totale. Quindi noi non abbiamo speso più degli altri, abbiamo sicuramente avuto la capacità in Minotti e a Galassi di scegliere delle persone giuste, uomini prima come diceva Gigi e giocatori poi, abbiamo costruito per merito di Apolloni uno spogliatoio straordinario e questo vale molto di più del budget o dei soldi che molte squadre possono mettere. Stiamo parlando di calcio. Assolutamente. Stiamo parlando di calcio, capito Mirko? Alessandro, buongiorno. C'è Alessandro? Allora c'è Marco. Buonasera. Maggio. Salve Marco. Buonasera mister. Buonasera Marco. Guardi, io sono tifoso della Lazio e quindi ho vissuto il grande Parma e la grande Lazio di Gragnotti, poi sono stati dei primi sia dell'una sia dell'altro, i vari scandali, poi purtroppo a noi ha toccato l'Udito, che era meglio i dilettanti. Comunque niente, io volevo ingeneroso, aspetto il Parma in Serie A per rivedere il grande Parma e niente, complimenti, in bocca al lupo. Io sto inviando la domanda sul futuro. ho ancora 6 minuti di trasmissione per porre la domanda sul futuro del Parma, ma Marco da Roma mi ha preceduto. Bene, io credo che Marco abbia vissuto con noi quel grandissimo periodo e poi finito in maniera sfortunata sia per la Lazio che per noi. Però ecco, io credo che al di là delle cose che lui ha detto ingenerosamente nei confronti del suo presidente, che sei io d'accordo, stimo. D'accordo ingenerosamente? Assolutamente, che io stimo, che è un presidente vulcanico, ma che è un presidente che sicuramente vede nel mondo del calcio qualcosa che deve cambiare. Ecco, io credo che il suo augurio sia veramente un qualche cosa che ci stimola, perché il Parma del 96, dell'89-96 è stato un Parma forse irrepetibile, però ecco, questo Parma ora sta cominciando con lo stesso stimolo, con la stessa voglia, e io, siccome non sono avvezzo a fare promesse, io dico però che molto presto ritorneremo a combattere con la sua Lazio all'Olimpico di Roma. Senti Nevio, posso farti un dispetto? Assolutamente. Allora, pubblicamente, davanti a tutta la platea radiofonica italiana, chiedo a Gigi Apolloni di fare delle richieste al presidente per l'anno prossimo, così mettiamo Nevio Scala in grandissime. Cosa vuoi per l'anno prossimo? Gigi? Me serve il... L'affetto... No, puoi dire quello che vuoi, ma puoi dire anche Messi. Sto dicendo, no, al di là delle battute, io penso che una persona come Nevio Scala, accanto a un allenatore giovane come me, sia quanto meglio un allenatore possa chiedere, nel senso che... Cioè, non è come Berlusconi, scrivere allora, foglietto di formazione. Io adesso non ho avuto modo di lavorare con Berlusconi, quindi fare, non posso... Fammi fare Lucignolo, dai. Magari posso sperarlo in un futuro, però adesso... Ma lavorare con Nevio Scala è sicuramente, che ha fatto il ruolo che sto facendo io adesso, mi è stato di grande aiuto, perché mi ha dato tutto lo spazio che... un allenatore penso debba avere. Non mi ha mai messo in difficoltà nelle scelte che andavo a fare o anche nelle domande che mandavo a fare o io nelle domande che andavo a chiedere, perché comunque mi confrontavo spesso con lui, come con tutti gli altri dello staff, da Lorenzo Minotti a Andrea Galassi. E io penso che un allenatore come me si possa ritenere fortunato ad avere un rapporto come questo, perché ripeto, lavorare in una serenità, in un ambiente che ti permette di dare e di esprimere quelle che sono le tue idee, che poi possono essere giuste, sbagliate, comunque avere l'opportunità di avere accanto persone come loro che comunque continuavano e continuano a stimolarmi e a incitarmi, magari anche in momenti, io sono un carattere particolare, nel senso che a volte sembro moderato, ma tante volte quando mi si chiude la vena non ragiono. Si chiude la vena. E avere accanto una persona come Nevio Scala, come ripeto, come Galassi, come Minotti, è stata per me un'opportunità incredibile, un insegnamento, è un valore aggiunto. Ragazzi, ecco. Ma sentite la pressione adesso? Cioè, lo chiedo a tutti e due, a Gigi Apolloni e a Nevio Scala, sentite la pressione adesso di dover tornare presto nella posizione che compete al Parma? Io rispondo io per primo, diciamo quest'anno l'abbiamo sentita, nel senso che, ma non la chiamerei pressione, però responsabilità. Responsabilità. Responsabilità nei confronti della gente che in 10.500 nei dilettanti hanno fatto l'abbonamento. Quindi nei confronti di queste persone avevamo la responsabilità l'obbligo quasi di fare il possibile per esaudire i loro desideri. e questo è stato uno stimolo importante, quindi direi che ecco, non dobbiamo avere paura di questo, non dobbiamo avere pressione, dobbiamo essere felici di quello che ci hanno dato i nostri tifosi. Giulio, buongiorno. Un minuto. Dica, veloce. Chiamo da Piacenza, sono ovviamente tifoso anche della mia squadra, la squadra della mia città. Ed è bella questa, tra virgolette, favola, no? Dopo i mille problemi che hanno avuto Parma e Piacenza, che tutte e due sono state promosse direttamente. Mi auguro di rivederle alla svelta, in Serie A, cioè più alla svelta possibile. La domanda a scala, studiato, perché lui c'è dentro, ma è possibile, è un sogno che nel giro di 3-4 anni rivedere queste squadre dai dilettanti alla Serie A, o è davvero così difficile? Grazie. È possibile, basta volerlo e basta lavorare con serietà e con trasparenza come abbiamo cercato di fare noi quest'anno. Quindi auguro a te e alla tua squadra veramente un grande successo e auguriamoci insieme di vederci fra qualche anno combattere in uno stadio di Serie A. Grazie a tutti, grazie Nevio Scala, grazie Gigi Apolloni, grazie a voi, grazie a Cibus che ci ha ospitato oggi, che ha ospitato oggi tutti i convocati. A tutto il personale di Radio 24 che è stato qui, ragazzi, sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti. Ciao a tutti.